non è che non è compatibile, perché la gente lì dentro non è che fanno dei casini o cose, però c'è anche il bar qua che ci ferma la gente e cosa, ci sono tanti dei colori in giro, il zone, cioè Bolognina è sempre stato così, perché anche la gente, se non gli dà lo spazio per cioè avere un po' di libertà e tutto il resto, cioè uno finisce a andare, non lo so, dei posti che non sono adatti. Però secondo me possono lasciarla. Questo è aperto solo il giovedì, gli altri giorni c'è gente che fa palestra dentro, c'è gente che fa teatro, cinema, hai capito? Dentro non vogliono che la gente spazia e tutto, però sei libero di farti quello che vuoi tranquillamente, c'è già qualcosa. Oh, un posto tranquillo è utile. Abbiamo le palestre di pugilato, abbiamo le palestre di fitness, abbiamo il mercato biologico, abbiamo posti letto per gente che magari non può permettersi una casa qua in Italia. Lo Stato non tutela nessuno, che sia italiano o che sia straniero. Per me è da tenere, assolutamente. Io non posso pagarmi, ad esempio, una palestra, loro me la danno gratis. Fanno i concerti a pagamento e con i nostri soldi che paghiamo per comprare magari il bere o per socializzare, finanziamo le nostre attività che vengono poi concesse. Le mamme vanno a fare fitness. Si togli questo e dopo cosa fanno? Cerchiamo di tenerla. Posso di chiuderla, ecco. Dovremmo migliorarla, ecco, dovremmo per il resto, Bolognina, cioè vedi che adesso vengono i carabinieri a controllare. Beh, prima o poi magari la situazione cambierà. Sono giovani, però sono prepotenti quando vengono fuori, si credono i padroni del mondo. Noi non dà molto fastidio, però per chi abita qui, caos. Diciamo che la conosco poco, so che non hanno la licenza, cioè quantomeno è in scadenza e il comune non so se ha intenzione di rinnovarla. Non so cosa facciano. A me personalmente non è mai capitato nulla di spiacevole, però mi raccontano di eventi spiacevoli, diciamo. Tipo rumori, ma anche spaccio. Diciamo che nel quartiere tutti auspicano che vadano via. Quello che è stato detto ieri in consiglio comunale, si è visto che non c'è più una compatibilità con quello che è il discorso XM24, con quello che era il loro progetto. Questo non l'ho detto io, ma l'ha detto il signor Mazzanti del PD, e quasi tutti all'unanimità hanno trovato questo accordo, anche perché purtroppo dell'XM24 nessuno si è presentato. L'XM24, per amor di Dio, organizza delle cose carine all'interno, però organizza anche delle cose che non sono più carine, che non sono più compatibili con quello che è il territorio. Serate tipo rave, punk. Dopo, finito quella roba lì, crea disagio al quartiere, perché sono tutti ubriachi in mezzo alla strada, bottiglie dappertutto, sporco dappertutto, io mi trovo sempre imbrattato i muri. Io non voglio mandar via nessuno, perché ho detto loro devono trovare, giusto che gli trovano un posto, perché è giusto, perché c'è anche delle persone che conosco, sono bravissime ragazze, come ho detto ieri, altri, che sono delle teste di cazzo, perché hanno fatto delle minacce senza metterci mai la faccia, solo minacce su Facebook. Devono capire che quando tu organizzi una cosa, tu sei responsabile anche di quello che succede fuori. È pura anarchia. Nell'anarchia ci sono delle regole, anche nell'anarchia, che tu devi rispettare la gente. Tu puoi essere anarco come che vuoi, ma devi rispettare il prossimo, perché il 24 era un centro sociale che nasceva con una ideologia, ora è cambiato completamente. Io ci sono andato in passato, purtroppo oggi è cambiato. Ci sono delle regole che noi rispettiamo, devono rispettare anche loro. C'è un altro centro sociale qua di fianco, non ha mai dato fastidio a nessuno. Dossimo, cagano, pisciano in mezzo alla strada, trombano in mezzo alla strada. Ma io sono in buoni rapporti con i ragazzi di Xenia. Penso che loro siano interessanti, ci sono varie attività interessanti. Rispetto al quartiere forse non riescono ad aprirsi come potrebbero. E quindi il quartiere li vede non troppo bene, perché si accorge di loro solo quando c'è qualche festa o qualche cosa che porta un minimo di problemi estetici, poi, perché non è che sono quei problemi di danneggiamento, e che a parte qualche scritta su. Però credo che se se ne dovesse andare sarebbe comunque una grossa perdita, perché qua non c'è nulla. Quando se n'è andato il mercato era diventata una terra di nessuno, per cui forse anche per comodità di tanta gente era diventato un po' il centro dello spaccio di Bologna. Oggi tutta Bologna è così, eh. Io sono molto favorevole a loro, sono un punto di incontro per parecchie cose, ultimamente ho visto che hanno fatto la palestra popolare, però forse appunto non hanno questa grande capacità di farsi vedere rispetto al quartiere, un po' perché comunque in alcune cose sono un po' autoreferenti, un po' perché la gente appunto gli indica come è il problema del quartiere, non è così. Se non è politica d'immagine faccio fatica a pensare che mandino via il cuore. Poi gli va dato un posto, assolutamente, perché quei ragazzi bravi si meritano un posto per svolgere la loro attività. Allora, perché il link è là in fondo? Ecco, vanno messi tutti intorno, anche perché si crea un polo dove tu sai che lì c'è il divertimento, c'è questo, non puoi più stare in mezzo alla gente, perché la gente ha diritto anche a riposarsi. Uno si deve fare un esame di coscienza e dire: oh, buona ragazzi, diamoci da fare, troviamo un posto in accordo col comune che ci va bene, lo facciamo una cosa ancora più bella, più grande. Tu mi fai una festa, quante persone ci stanno? 300, hanno logato per 300, stanno in 1000. Poi perché devono avere paura la gente di andare a San 24? Perché c'è la gente che non la pensa magari così, che vuole andare a fare una cosa, non può andarci, c'è già anche uno stato di terrore, perché se non la pensi come loro ti tirano legnate, cose, cioè non puoi fare una protesta, quel corteo che fa loro va sempre bene, come fa gli altri non va mai bene. Allora questa non è l'anarchia, vuol dire proprio essere egoisti. Troveranno, speriamo, una soluzione. Tiri sul volume che non dormono i vecchietti qua sopra, hanno paura sti vecchietti, arrivano questi con delle creste 4 metri, farcetti duri, mezzi nudi, ubriachi fradici, una signora si prende paura alle 6 del mattino, alle 11 sdraiati qua per terra, una consigliera fanno dei corsi, poi se tu hai una bicicletta, l'hai rotta, la porta di te la riparano, è gratis. Ma quella non è una cosa bella, quella è una cazzata che stai dicendo tu. Ma fanno delle cose belle davvero, i corsi di fotografia, ho visto. Questo devi dire. Già uno che si dice, vuol difendere un X24 dicendo riparo le biciclette, vuol dire che proprio siamo alla follia pura. Anche tu come assessore, che almeno fosse bello quel po'. Ho già tolto quell'opera d'arte che c'era prima, che è finita questa cosa. Se te sei un collettivo coi coglioni, quella roba lì non la toglievi. Anche se l'ha fatto tizio Caio Sanproni. Perché ma lì era per toglierlo, per sottrarlo alla mostra. Ma che infatti hanno fatto delle belle cose lo stesso. Invece bisogna appunto sottrarlo. Ma le cose si collaborano se vuoi andare avanti. Lei c'è mai stata l'XM, no? No. Non conosce? Assolutamente, no. 54. Posso dirti che dei problemi a livello non disturbano a livello, però poi non so, alla sera o cosa c'è, okay. Sai, dopo mi chiudiamo alle 18, ma lì non fanno in tempo a imbiancare che a pulire, che ma questo non solo qui comunque, se si gira per Bologna è un problema abbastanza... Sì. Ma è un problema, cioè... Dai, insomma, questi muri così non sono belli. Poi se uno fa un bel disegno, come vedo che stanno facendo nel Ponte Mascarella, se, che poi possa piacere o no, un discorso, sì. Però comunque ha un senso. Non piace, basta. Si dovrebbe un attimino più riqualificare la zona. Un po' più di luce, un po' più di attenzioni da questa parte. Se io alle 9 non posso più vendere alcol, perché tu vendi alcol? Cioè non è che tu vendono in mezzo alla strada, però arrivano persone o già con le bottiglie che non ci devono stare dopo le 9, o alle 4 o 5 del mattino. Se vuoi organizzare una festa, la puoi organizzare benissimo, però devi anche tutelare quello che è l'ordine pubblico. Non si può essere più d'accordo, perché non sono più i ragazzi di una volta, diciamo, che adesso c'è ancora più meno freghismo e anche tra di loro non sono, secondo me, coordinati più come potevano essere una volta. L'isola del cantiere. Quello era un centro sociale. Tu vuoi un posto dove divertirti? Non è più qua. Perché qua c'è delle persone che hanno attività, c'è delle persone che chiedono un decoro e tu non mi garantisci il decoro. Ieri, non presentandoti, hai confermato che non te ne frega un cazzo. Io non ci sono mai stato, lo conosco, so che la domenica qua è uno schifo, tutto sporco, bottiglie rotte, solo questo so. Poi non so niente cosa fanno. Scade la convenzione che hanno col comune. Ah, Andrea, sì? Sì. E meno quindi... male. Gioverebbe a... posto. Poi per me giro anche droga. Dell'XM sono i gran bei disegni che fanno musica, che si sta bene lì, sì. È bello. Sì, bello. Come lo voglio chiudere? Ma vai, ma qualcosa è compatibile col quartiere? Ma vedi che quartiere c'è? Ma cosa è compatibile? È la gente, tutta la gente che abita qui, va all'XM. Ma non è vero, è compatibile col quartiere, allora non sono discoteca, quindi è compatibile con Bologna. No, non ci vado a ballare, però qualche volta quando c'è niente da fare ci si diverti. Con tutti i socievoli lì. Anzi, ci va anche mia mamma lì. È storico l'XM, ci vanno tutti.